zitto, bello bello. Ti faccio schiattare. Ti faccio... Ti chiamo il carabinieri, hai capito? Via, guarda adesso, tutti. Via. Quando ero dormito mi sono in tazzola. Adesso ho passato in sala. Fare roba. Bello, sì. Ma cosa? Secondo me deve essere ancora dormito. Vabbè, ma ho fatto pure piccolo ieri notte. Quindi adesso ho dovuto, sono dovuto fare a letto. Capito? Sei tu in casa? In casa, non sei vinto. No, sono andato a messa stamattina alle 6:30. Oh, a messa, vero? E allora, perché tu non sei andato? Non ti credevo così cattolico. Neanch'io. E se vedi chi c'è un coso? A fare un reset, si dà ciappo. Lo accendi, vai nel menu e cerchi il reset. Se organizzi tu. Ekin, vediamo, OCC, Connect, Mode, Reset. Adesso la voce Reset ti dà altre voci quando fai il Reset. Fai All Reset. All l'ha scritto. Ma sei zio. Vabbè, fai All Reset. E come faccio per confermare? Sempre con ti dice fai menu e poi ti chiede voi veramente e fai ok. Aspetta, mi devo far di nulla. Aspetta un secondo che prendo l'altro. Ci sei anche tu? Ci sono. Allora tu sei sulla voce reset e sotto c'è scritto all, ok? Aspetta. Tu sei nella scritta dove c'è reset all, ok? Ehi. Adesso col tasto menu sempre, va, premi una volta e ti va la freccia in giù dove c'è scritto all. Sì. Ok, adesso ti scrive source, ok? E tu fai ok. Io sono andato. Sono andato, ma source non è. No, allora tu quando aspetta, quando tu sei nel menu, ok, menu reset all, poi col tastino menu ti fa vedere la freccia che va giù in all, ok, qua premi di nuovo menu e lì ti va un'altra scritta, ok, dove c'è scritto source white. Aspetta, cosa ti scrivi? Mandami una foto. Ma devi già dovrebbe fatto, dai. Beh, ci sei riuscito. Dovevo fumando tutto a casa, tutto a cazzo, mamma mia. Se cura a terra io me. Mandami il video di come stai facendo. No, lascialo perdere. Vai, ci me ne dà culo, se no tiro a terra. Certo, due movimenti devi fare. Ma se tu non lo fai, devo dare un po' su va. Ma io ci sono qua per aiutarti, ma se tu non vuoi l'aiuto, non mi fai vedere che cosa stai facendo, io come faccio ad aiutarti? Se ti stanchi, adesso ti faccio il video del mio. E meglio fai, che mi ha girato lo sciuscino, che sai. Guarda che te l'ho mandato. Mamma mia, quanto lo odio, porca miseria. Allora, proviamo, te lo chiami in giro. Boh. pranzo. E pranzo. Benissimo va. Buona? Buonissima. Ti lascio la passarsi un attimino per un po' te. Niente, si sente? No. Ok, grazie, Arturo, dai, ci sentiamo. Ciao, ciao, che tiro un tizio con lo spinotto, ciao. Ciao, passare domani, ce la sentiamo. Amato, no. Se sei riuscito, sì. Eia. Bravo. Bravo. Ce l'ho messo, non riesco proprio a capire, non riesco proprio a comprendere un di è. Niente strano, veramente, quando hai montato l'antenna in via Milano, mi hanno tutti. Io mi ricordo che l'hanno portato, però me l'hanno portato via forse anche. Non riesco a capire, magari quello che salta fuori. Magari hai detto l'hai portato via, magari, se invece hai givi, magari te l'hanno conservato da qualche parte. Faccio, chiedo a Daniele a vedere. Dopo la sono riuscito a trovare questo strumento. Non è che me l'ha regalato, me l'aveva fatto un bagacco usare. Me l'aveva fatto pagare anche un po', però no, dico la verità, continuava bene. Non cagava mai. Vaggio in salonetta, vaggio in camera, fa carità, è tutto imballato. Chi si già miracolo? Ma lo vanno, boh. È così, infatti te ne prendi uno magari usato da spendere poco e te lo tieni attaccato sempre, soprattutto da sai quando. No, non lo devo comprare, adesso c'è quello di Intec che funziona benissimo, funziona anche quello, cioè lo tengo sempre perché ha sempre funzionato bene. Mi dispiace perché cazzo non ancora funzionava bene. E infatti mi misurava giusti, Aspetti, mando la foto. Sì, già. Però è strano, cazzo. È strano che non ci sia, Guarda, questo è bello lo stesso, Aspetta, posso mandare. E lo sai, c'è cosa. È enorme. Lei ha fatto risposta. Spesso un trappato, abbassa appena. Guarda così a tu, ora, cappa. Cappa. Se mi prendi, stavo guardando ieri l'altro giorno un... come si chiama? Un forum stavo guardando. Cosa mi era successo? Cioè, l'ara 48 questo precision series dici che è introvabile. Come è introvabile? È introvabile quella cappa. Uno mette a prova, uno mette a prova, ma sotto adesso. No, va benissimo qua. Beh, esci che entro dentro riprendo con la stazione 2, va. E attacca la stazione 2, attacca. Dimmelo. Cappa. Adesso sono coccato. Ehi, alla Gragoro. Dimmi, sì. Sì, stanco sono. Ieri ti avevo detto abbiamo fatto le ore piccole. E domani ci travaglia, E domani ci lavora. Ma è concetto non venire neanche in giro, non già l'altro. A Natale. No, ma dobbiamo montare giù ad Alghero domani. Dobbiamo montare. Devo uscirti il burughizzo di Manzano. Ah. Adesso per capodanno così. Eia. Ma comunque non c'era un granché di fuochi, mi qua dietro, cazzo, nei caturoni in aviani, non li hai visti i fuochi artificio? E su Mario, qua proprio dietro. Aia. Non c'ero uno io qua. Non c'è l'altro. No, era a Sant'Orsola, cosa di moce, ma carità. Io mangiare giù con due e uno. Un mortorio era. No, vabbè, anche a Sant'Orsola li avrei visti. Cazzo, già erano belli alti, sì. Sì, bellissime. E poi forza. In chi vive è uno che le vende una gran carriera. Vero. Infatti. Ah, però già erano belli. Finché sono fuochi artificio già sono belli. Per i cani più che altro, tu, capito? Per i cani, finché sono fuochi d'artificio è una cosa anche bella da vedere. Magari hanno gli uccisi bombi. Cazzo, non li sequestrati, ma nonostante tutto non è venduto un bel sempre. Ma cosa, cazzo cane, cazzo padre, fai non ammara. No, tu ai cani non va bene, lo mio, guarda, il mio è tanti cani hanno, guarda, il terrore veramente, poverini, perché loro lo sentono in un'altra maniera, capito? Tu non ce l'hai, è così che non lo vedi, come poverino il cane ha paura dei butti. Non è io, non sai di quasi quando lo coppieggiano. Vabbè, già ci già ti trasportare un rito, ma che lungo. Ma infatti il sindaco aveva vietato anche, capito? Poi non lo so, pattugli, no, non si rivede manco a manco si rigiammi dove venire. La cosa più tragica è che hanno spaccato le cose, hanno spaccato i bidoni della Mondezza. E quali? Quelli che ci sono stati in Pisa, hanno infatti brincato in aria. Perché non si divertono più ormai a vedere, sì, fa casino, il botto. No, non si divertono più, adesso li mettono sotto le macchine, li mettono nei cassonetti, capito? Devono vedere roba ancora più sostanziosa. Se tu proibisci, quelli là vogliono vedere cosa succede. E allora, più li proibisci, peggio ne fanno. Pochi ne fanno, ma quei pochi fanno danni. Lo so già. Ma da minori, burro da minori, così. Pure io mezzo bombarolo, che... Le magne un velo all'epoca, i ciccioli, i mini ciccioli, le bombette, di chi si ha tonnellate. Zuccavane, però in magno di una volta il Mefisto era il Mefisto davvero. Sì, quello rosso. Su, per me è una bomba, ma non posso farmi così esagerati, allucinanti, bisogna 3 kg pesare. No, chi si fa da me è cinese, non sono una nuda. E sono pericolosi. Fai così, una vita. E infatti vabbè, devo dare il giornale, cappe sulla mano, cappe sull'udito, perché li raccolgono da terra, che non sono esplosi, capito? Andano a accendere, l'udito si torra. Ricopia Germano, non sono male quelle che dicono al telegiornale, non tu, negli ospedali, non sono male, stai tranquillo. Chi sei che sono guasi ende? Gli incidenti succedono, tu, capito? Oppure gli si scoppia in mano perché è difettoso, a te non ti è mai successo, ma vedrai che a quello che gli è successo non lo rifarà più. Però uno questa cosa non risulterà e dici che l'ha preso guasi. Io non ne raccoglievo mai da terra. No, ma stai dicendo, capita anche quello difettoso, dalla scatola magari, che c'ha po' camicia, che se così così tu sei convinto che è a pusho. Quelli che stanno facendo adesso c'è una miccia lunga, quindi non c'è problema. Li tiri, come accendere, butti in terra, ti innande. Vabbè, dai, rimano ascolto, che sto aspettando finisca questa stampa. E mi sto saldando una cosa, dopo ti mando la foto. E io, ok, dai, sono in ascolto qua. Somebody must got keyed on. It's too quiet out here. Mr. Machiavelli, CL, leak it out. Everybody opening up their Santa Claus presents, man. Good morning, good morning. Merry Christmas. Dog catcher, get down. Come on, right back, dog catcher. Hey, dog catcher, you said they all opening up Christmas presents. A lot of them boys getting cold. A lot of them got cold in they stockings. Hey, dog catcher, good morning. Merry Christmas. I'm gone. Right back. Mr. McAvely, I just joined myself. Good greetings, brother. We may all. Likewise, I got me a fresh cup of mud, I'm gone. Right. I believe I hear my cousin out there, it's rough over here, I think you said, hey, cuz. But good morning to you, Mr. Worldwide Iron Mike, your cousin, getting down. Why, my boy, you down in the letting my cotton make a noise level, man. I'm down on this ground plane, but I'm trying my best to get back in your radio. Cuz, enjoy your day, man. Good morning, this morning. Merry Christmas. I hope you have a prosperous New Year, brother. You and the family be safe. Enjoy yourself. Old night runner getting on down. Yeah. Hey, Night Run the Morning, and Merry Christmas to you as well, man. Hope you have a prosperous new year coming up, and also you and family, and be safe and be blessed. Hey, Mr. Worldwide Night Runner, you know who it is over here. I'm in the field and I'm gone. And I heard your radio, Mr. Magabelli. I'm getting on down. Gigio. Vabbè, dimmi taci. Dimmi, stavo coricando, stavo. Sta cura. Ma che mi stava così bene? Poco fa ero fuori, ero. Ho sentito un altro bimbo, ho sentito. Tu eri, no? No. E mi sto coricando un po' perché domani. Domani è pesante, cosa c'è Gabriele? Mamma mia, e alzati, io e tu, non è entrato nessuno in occhi. Sì, le becchine sono entrate. Ah, così, se è una cosa allucinante in occhi. E apri, che appaga. Che c'è niente, tutte me le... Quando parli tu, tutte me le copri. Con qualcosa sì. E col portatile. Se sono coricato. Pre Gabriele vuole parlare. Chi è avanti? Avanti sul 10. Avanti. Ma che è Antonello Pomponio? Avanti sul 10. Avanti. Pi. Avanti lui. Prova. Vabbè. Sta innescando. Qualche apparecchio acceso. Guardati il video. C'è un altro acceso. Una bomba. Sì, truba. Sai, con quali stai parlando? Senti un bel bene. Però sto parlando col grande. No, è da finire ancora. Quello che vedi è il piano di massa che poi andrà. Mi sto facendo un supporto dove poi ci va collocata l'antenna telescopica che hai visto. Cazzo. È buono, sente bene. Lascia vedere. Hola chicos, attento Luca, mi senti? Attenzione, binario 10, c'è qualcuno, kkkk, 1, 2, 3, prova, avanti, sì che ti sento, k, dimmi mai che sì, 5, 6, e io più forte ancora ti sento, ebbene sei in alto, cavolo, non ho problemi io, è come che c'abbi l'ignare naturale lì sopra, che con un antennino non c'è problema. E Gabriele no, chi? Ho vendite tutto. Cosa? Ha vendimi tutto, così hai detto. Mi piace lo vendere prima Ed che io. E ho detto, fuori ha vendite tutto tu. Ma no, vedi che è tutto muscio. Vabbè, già ho ascoltato il messaggio. La settimana prossima magari, non so quanto. Saliamo, ne la togliamo e ti metto tutto in vendita. Va bene, capo. E buono, ti grido, gassaimi. Cosa la gassa in kiwi? Va bene, ti compri giù zini, un attimo che ce n'è un altro che... a fare il baracchino. È davvero, me. Certo. Il microfono te lo vuoi mangiarlo? Vabbè, oggi è Natale, coso. Ah, è vero, c'è la settimana bianca. Poi, d'estate sono tutti al mare, in autunno vanno a innamorare. Cosa vuoi che ti dica? È la colpa sempre di internet, tanto non ti preoccupare, che la colpa è sempre lì. C'è chi canta, così che usa il telefono, internet, c'è chi fa altro, col computer, con internet, comunque. Quando non vedono che cosi, la radio, da Romanzano a Ranucci, oh yeah! Sono tutte stronzate, perché in continente, soprattutto nella zona di Roma, stanno riprendendo alla grande. Ma in continente dappertutto parlano, anche dal nord al sud. È una passione che non hanno mollato nonostante la tecnologia. E qua è capito che hanno fatto la scelta sbagliata, diciamo così, dai, invece di usare uno o l'altro. Il problema di qua è che molti che si hanno preso un pezzo di cosa in mano si credono molto superiori, invece però non se lo ricordano quando erano qua. Allora, anche quello è vero, anche quello l'ho notato anch'io, dopo di dire intanto di no, che non è vero. Ma Non si lamentano in più quando erano in GB. Avasso tutti i vendori preziosi, so. Sì, anche a tratta mia convenienza, tanto a convenienza, io l'ho già notato, più di una buccia. Ho preso, capito, fa molto parlare all'altro, entro i 27 entra in giù, ma a convenienza. Vabbè, la cosa è aperta per tutti, ma noi non ci disturbasse. No, assolutamente, quando spariranno tutti quanti, poi da qua vedrai che se ne pentini da voi, capito? Sì, io penso che a uno quando piace la radio deve arrivare fino al fondo. Eh sì, se c'è la passione deve rimanere. Certo, non più come prima, nel senso che non compri più a decine di apparecchi, microfoni, chi dell'altro come prima, perché intanto appunto meno gente c'è, meno cosa sostanza si ha di battuti che si gosia. Prima provavi 50.000 microfoni AD, baracchini, lineari e tutto. Allora cosa provi a fare? Già lo so già. Però è un vero peccato. Vanno giustamente WhatsApp, Facebook, il tempo lo passano più. Stai tranquillo che il tempo lo passano più lì, capito, volentieri che qui. Certo. E che vuoi che ti dica? Io non ho più parole. Io ho visto il continente che stanno ripartendo alla grande, stanno togliendo tutte le stazioni vecchie di una volta. Cavolo. Se tu guardi anche video, non ce n'è di calo anche tu, capito? Soprattutto nelle strade, i camionisti ce l'hanno come ce l'avevano ieri, né più né meno. Mentre qua difficilmente che li senti, c'è quasi nessuno. Anche i camion erano tutti tolti, prima il 5 ci sentiva gente, già da Mazzano era sempre andando l'apparecchio. Eppure in continente viene un bel, ripeto, perché poi basta guardare YouTube, chi deve vendere le antenne e piazzandole nei camion, capito? C'è tanto parecchio su internet, su video. Dice che si sta piazzando il lineare, fatemi vedere il video, capito, nelle macchine, nei camion, eccetera. in casa non li fa più demo, ci sono dei video che fa lineari mostruosi, sono bara 27, pensa alla passione, ma che c'è ancora. Ma infatti, è solo in ogni scomparsa, perché tutti, ripeto, vogliono fare il prezioso, a me non mi dà nessun fastidio se uno viene a parlare qua. Tutti vogliono fare grandi maestri, vogliono fare preziosi, quando non lo sono mai stati neanche nella vita normale, senza fare i nomi, senza fare nulla. Lasciamo perdere, va. Agito a convenienza, come si è già, come si è sempre risaputo, capito? A convenienza, da bui molla e da bui torna a entrare, da bui succede, si succede e se torna a entrare i fili, bah, la sapete. Ma appunto, sciapperò, io penso che non ci sia niente di male. Denigrata, denigrata è buh, capito? Perché giustamente poi fanno quel salto lì, no, e parini, e ti dici buh, no, sono sempre impegnato, come te che la gente la recino qui là. È denigrata la gente che no. Cosa c'è Gabriele? È denigrata da quelli che prima erano qua e poi ce ne sono andati dove ce ne sono andati, senza fare nome. Che si credono di essere belli, ma non saranno mai belli. Sono sempre così. Lì ha ragione. Infatti stiamo dicendo la stessa cosa. Secondo me un po' di 27 bisogna farla, perché bisogna farla? Anche perché non è che puoi stare sempre dando codici, sempre bubù, sempre misurando le parole e cose, perché è quello il gergo che bisogna fare, quello il tipo di radio che bisogna fare, c'è nulla da fare, sa, se sbagli una parola, è quello il problema. E che parola devi sbagliare? No, dico che in altre bande bisogna stare di come parli. Qua è un po' più libero, un po' più sciolto. Tanto l'educazione ci vuole dappertutto, non è solo che è quel più sciolto. È che noi bisogna maleducati, capito? Sono maleducati, quando intendono i cigosi, soprattutto con bambini che ascoltano e persone grandi, non c'hanno rispetto, capito? No, vabbè, ma rispettano altre frequenze, puoi parlare un po' del più e del meno, lascia perdere la cosa, del più e del meno puoi parlare, invece Gabriele, invece in altri canali devi tenere uno standard. Ma tu li senti parlando di pasta carbonara e cavrafiori, anche là tu. Poi c'è la ruota dove magari fanno discorsi di radio, di costruzione, di antenne, di cose, capito? Uno poi decide se entrare, se non entrare, ma anche negli altri posti, capito? Fanno discorsi normalissimi, ma sempre con educazione. Capo. Per me è troppo complicata la storia. Ho visto uno che sta vendendo il libro per fare l'esame. Sì, ma apri internet, è pieno di quiz. Forse qualcosa di vecchio, ma io non ne ho voglia, se mi metto guarda come li faccio smettere quei quiz, fanno cose più importanti, ho fatto di certo non temo a fare quelle cose lì a futtidini. E allora, se c'è la passione, certo che sì. Ma vuoi scommettere che ci riesco subito? Ehi, apro quei quiz, quelli lì, e riesco subito a studiare. Dica tu, dica, dimostragliela tu. Non è giugana, ascolti che ci sei vinto a giugare. Io voglio perché c'è un'altra cosa in testa. Quasi che mi libererà la testa e poi mi convinca a me. E chi è? Ah, più bacio, sì. E ciao ciao. Ciao ciao.